Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: avremo un approfondimento su alcune dichiarazioni in tema fiscale, sia del ministro Gualtieri, sia dei sindacati. Perché? Perché venerdì inizierà il primo incontro tra a Palazzo Chigi tra sindacati e anche rappresentanti delle imprese con il governo, incontro che poi continuerà, come ricordavamo ieri, lunedì, dove ci si occuperà invece di pensioni. E quindi il tema che abbiamo approfondito ieri, la proposta, l'ipotesi su cui lavora il governo, quota 102, l'ipotesi invece dei sindacati di mantenere appunto l'attuale situazione con addirittura 20 anni di contributi, poi ne riparleremo. E invece venerdì l'incontro sarà proprio sulle misure di carattere fiscale, quindi oggi sia il ministro Gualtieri che le varie sigle sindacali hanno illustrato le loro proposte. Parleremo di questo anche perché c'è stata l'audizione in commissione parlamentare del presidente dell'INPS Tridico, e tra l'altro Tridico sarà domani mattina ospite con Simone Spezia e Maria Datella alle 8:35-24 mattino. Tridico ha parlato anche del reddito di cittadinanza, attenzione perché ha definito occupabili, non occupate o occupande, 739.000 persone, e ha ricordato che il 30% delle domande è stato rifiutato perché grazie all'incrocio dei dati si è scoperto che il reddito del patrimonio era più alto di quanto accettato per ottenere il reddito di cittadinanza. Poi andremo su un tema che è un tema abbastanza, devo dire, classico, ahimè, del nostro programma. Mi riferisco a dove pagano le tasse i grandi colossi del web. Proprio ieri ricordavamo come nel ristrettissimo gruppo di chi capitalizza più di 1.000 miliardi in borsa, a parte il colosso petrolifero Aramco, che si è appena quotato, saudita, tutti gli altri sono giganti del web, quindi Google, ma anche Apple e via discorrendo. Oggi perché ne parliamo? Perché il rapporto Tax Watch, che è un centro di studio londinese che va a monitorare le politiche fiscali delle multinazionali in Gran Bretagna, ha scoperto che Netflix avrebbe spostato profitti per 430 milioni di dollari in paradisi fiscali nel 2018. Sarebbe l'ultimo esempio di un elenco sempre più crescente di giganti digitali che usano una rete di società offshore per spostare i profitti nelle giurisdizioni più favorevoli. Dico una cosa che può far saltare sulla sedia. Nel 2018, nonostante Netflix abbia realizzato 1 miliardo e 200 milioni di dollari di profitti in tutto il mondo e registrato entrate per 860 milioni di sterline dai suoi 10 milioni di abbonati britannici, la società è riuscita a non pagare neanche un euro di imposte nel Regno Unito. Ora, qui il problema non è prendersela con i giganti del web, è chiedere, e so benissimo che i paradisi fiscali sono stati nel passato usati anche da imprese che non c'entrano niente col web, ma va male uguale. E cioè il problema è che qui sta emergendo sempre di più con forza che questo new economy, insomma, il nuovo mondo del web è molto vecchio per quanto riguarda la poca propensione a pagare le tasse laddove i fatturati vengono generati, i ricavi vengono generati, con tra virgolette l'aggravante che, essendo un mondo digitale, mentre l'azienda manifatturiera, l'azienda di servizi è fisicamente presente in alcuni paesi, ha uffici, ha dipendenti, insomma è molto difficile che sostenga che non fa fatturato in quel paese. Noi sappiamo che quando si tratta di abbonamenti sostanzialmente fatti online E è molto più facile spostare non solo la residenza fiscale laddove più ti conviene, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, ma addirittura poi utilizzare quello che dimostra il rapporto TaxWatch, un insieme di società offshore per spostare tutti i profitti nelle giurisdizioni più favorevoli. Va anche detto che la Gran Bretagna è decisamente più tollerante su questo rispetto alla legislazione che c'è in Italia. Le vendite nel Regno Unito vengono fatturate da una società offshore con sede nei Paesi Bassi. Ora, l'altra cosa che balza agli occhi è la continua concorrenza interna all'Europa e quindi il fatto che a far da veicolo su questi mancati pagamenti di tasse siano società di paesi che appartengono all'Unione Europea. La lista è lunghissima. Tra l'altro ricordo che lo scorso ottobre la Procura di Milano, a proposito del metodo Milano, aveva aperto un'inchiesta per omessa dichiarazione dei redditi nei confronti proprio di Netflix. L'indagine è condotta dal PM Gaetano Ruta e a differenza delle altre inchieste fiscali milanesi che hanno riguardato Apple, Google o Facebook, non contesta a Netflix la stabile organizzazione occultata al fisco, perché pur avendo 1.400.000 abbonati, Netflix non ha strutture dipendenti, immobili, impianti, macchinari, fibre ottiche, computer, che partecipano in modo rilevante all'attività che invece viene svolta in Olanda. Tra l'altro, dopo l'annuncio dell'inchiesta giudiziaria milanese, il numero uno di Netflix, Reed Hastings, aveva annunciato l'apertura di una società in Italia, e dove ha detto che verranno investiti 200 milioni di euro in contenuti italiani e apriremo una sede in Italia. Devo dire una cosa: ogni volta che questi colossi vengono posti di fronte all'inchiesta della Procura, almeno nei casi che abbiamo visto della Procura di Milano, alla fine si arriva sempre a un accordo e un tradotto, accettano sempre di pagare. Di questo parleremo anche in apertura. Poi ancora due temi, e mi riferisco al rapporto annuale di Allianz sui i rischi per le imprese, si chiama Risk Barometer, il barometro del rischio, ed è interessante oggi perché arriva da 2.700 esperti di oltre 100 paesi questa indagine, e sì, nel rapporto di quest'anno, siamo alla nona edizione, al di là dei rischi classici, cambiamento della legislazione o tensioni di carattere geopolitico, è molto forte il rischio legato al cambiamento climatico e il riscaldamento globale e i rischi informatici. Comunque ne parleremo nella seconda ora del programma, così come, visto che parleremo del rischio cambiamenti climatici, affronteremo anche gli obiettivi che si è data oggi la Commissione europea, che ha presentato a Strasburgo davanti al Parlamento europeo il cosiddetto Green Deal, cioè la riduzione delle emissioni al 2030 dall'attuale 40 al 50-55% in meno rispetto al 1990. Fondi sia pubblici che privati, 500 miliardi dal bilancio dell'Unione europea, 300 miliardi dal piano Invest EU, che è l'erede del piano Juncker, 100 miliardi dal meccanismo per la transizione equa e 100 miliardi dai cofinanziamenti nazionali, cioè quindi i cofinanziamenti che ogni paese mette a disposizione quando ci sono finanziamenti europei, 10 anni quindi per mobilitare in tutto 1.000 miliardi di investimenti pubblici e privati. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Hanno ragione gli ascoltatori che dicono: guardate che però poi la Francia ha provato a dare una tassazione sul web, è arrivata prima ancora che arrivasse la tassazione la minaccia di Trump, che è molto bravo a difendere gli interessi delle multinazionali del web americane, dicendo: attenzione, metteremo i dazi a chi applicherà una web taxation. Ora mi sembra una posizione, per carità, insomma, molto discutibile, anche perché poi gli Stati Uniti invece, quando scoprono evasione o elusione fiscale nel loro territorio, pensate alla vicenda dei conti correnti in Svizzera, sono molto duri nell'applicare poi sanzioni di carattere americano. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo rapidamente con le notizie in breve, partendo dalla borsa. Forse oggi totalmente piatte, era un po' che non vedevo degli indici così invariati, 008 Milano, 002 Parigi, meno 002 Francoforte, più 005 Londra, insomma l'Europa oggi poteva anche stare in vacanza quanto a borse, Dow Jones più 0,33%, in realtà poi i titoli si muovono un po' di più dell'indice, più 1,70 Moncler, più 1,50 Nexi, più 1,30 Azimut e Prismian, più 1,20 Amplifon, più 1% Terna, Fineco ed Exor, ma anche Campari, Pirelli perde il 2,90%, Tenaris il 2% come Banca Generali, l'1,70 Leonardo, l'1,30 Eni, l'1% il calo di Poste Italiane. Tassare il web è una questione di equità sociale, sì, e faremo risentire la dichiarazione del procuratore capo di Milano, Francesco Greco, presa convegno di un paio d'anni fa qui da Sole 24 Ore, proprio su questo tema, cioè la tassare web è una questione non solo di, diciamo, di giustizia, perché tutti devono pagare le tasse, facciamo da sempre la lotta all'evasione e siamo paladini in questo, però poi torniamo sempre al discorso, attenzione al commerciante, all'artigiano, al libero professionista che deve dimostrare qualunque cosa. E poi, ripeto, il metodo Procura di Milano ha portato nelle casse dello Stato l'anno scorso 1,3 miliardi, che sono serviti alla finanziaria del 2018, non tanto quella del 2019, quella del 2018 su 2019. Però è un problema di tenuta del tessuto sociale, non è solo un problema di equità e di giustizia, perché, come ricordava Greco, proprio anche i colossi del web, dell'IT, stanno creando distruzione di posti di lavoro e non sempre c'è il cosiddetto replacement, il tasso di sostituzione uno a uno, e un ragionamento in cui in un periodo di transizione, finché tu hai una distruzione di vecchi posti di lavoro, non hai ancora completamente capito quali saranno i nuovi posti di lavoro, lo Stato dovrà accollarsi, gli Stati, questa transizione. E come si accollano gli Stati questa transizione? Con soldi pubblici, con politiche di welfare? Beh, sarebbe giusto che a queste politiche di welfare contribuissero non solo le imprese manifatturiere e dei servizi, ma anche le imprese digitali, che sono le principali benefattrici, non è una colpa, diciamo, è la rivoluzione che è nata, ma sono le principali benefattrici di questa trasformazione. Allora, andiamo rapidi con le notizie in breve, per quello che riguarda, visto che parliamo di Netflix, intanto Goldman Sachs ha alzato il prezzo di riferimento dell'azione a 450 dollari. Ci sono notizie che riguardano la Boeing, anche lì, vabbè, sono cose private, però che l'amministratore legato alla Boeing se ne vada con 92 milioni di dollari di buona uscita complessivi, la dice lunga su come ancora c'è un rapporto un po' discutibile tra remunerazione dei top manager negli Stati Uniti in primis e risultati raggiunti, anche perché ricordo che la Boeing è in estrema difficoltà per il modo in cui ha progettato, oltre che per le vittime che ha causato, visto che sono due crolli di aerei, due disastri aerei, 62 milioni di dollari, scusatemi, non 92, 62 milioni di dollari ha preso l'amministratore delegato uscente di Boeing. E oggi Moody's ha messo sotto osservazione il giudizio sul debito, dicendo che potrebbe arrivare a un downgrade, a un abbassamento del voto. La Cina ha segnato a dicembre del 2019, l'anno scorso, un surplus, un avanzo commerciale di 46,80 miliardi di dollari, in calo di quasi, anzi di 10 miliardi secchi rispetto al dicembre del 2018, a dimostrazione che un effetto dazi c'è stato sull'andamento commerciale della Cina. L'export è cresciuto del 7,6%, l'import è aumentato del 16%, però attenzione, se si guarda il 2019 complessivamente, L'avanzo commerciale cinese è salito a 424 miliardi contro i 350 del 2018. Cosa vuol dire questo? Ha fatto un più 21%, che nonostante i dazi, la Cina è riuscita ad avere esportazioni più forti delle importazioni per 424 miliardi, in crescita di 70 miliardi rispetto all'anno scorso. Si è ridotto però il surplus commerciale con gli Stati Uniti a 295 miliardi, quindi tradotto, questo aumento dell'avanzo commerciale è dovuto al fatto che la Cina abbia aumentato l'export verso altri paesi e ridotto in parte l'import da altri paesi, non con gli Stati Uniti, perché lì c'è stato un calo dell'8,5%, appunto a 295 miliardi. In Giappone Nissan smentisce ogni piano di scioglimento dell'alleanza con Renault, e quindi le notizie diffuse ieri dal Financial Times, mentre sempre nel settore auto la casa automobilistica Opel ha purtroppo annunciato che ha intenzione di tagliare altri posti di lavoro, 4.100 posti a rischio. Chiudiamo con l'Italia, perché lo spread BTP è stabile a 154 punti. Oggi il Tesoro ha collocato in asta BTP a 3, 7 e 20 anni per un totale di 6 miliardi e 750 milioni di euro. Il rendimento è sceso allo 0,18% con una domanda buona, una volta e mezzo l'offerta. Su un 0,18% la scadenza a 3 anni. I BTP a 7 anni il rendimento ce l'hanno allo 0,94%, i titoli a 20 anni il rendimento è al 2,14%, però stai prestando soldi all'Italia per 20 anni. E anche qui l'offerta è stata una volta e mezzo, la domanda è stata una volta e mezzo superiore all'offerta. 349-238-6666 per sms e whatsapp. E allora partiamo con la pagina, insomma, l'aggiornamento in vista degli incontri di venerdì tra governo, sindacati e rappresentanti dell'impresa sulla riforma fiscale, e mentre lunedì vi sarà l'incontro sulla proposta, per ascoltare anche le posizioni dei sindacati, di riforma delle pensioni. Sì, lunedì 27 gennaio, non lunedì prossimo, mentre venerdì dopodomani l'incontro tra governo e parti sociali. Allora, il piano del governo, da quello che si è letto e soprattutto è trapelato, dovrebbero essere ridotte le tasse, appunto il tema del cuneo fiscale, a partire da luglio per 15 milioni di italiani. I lavoratori dipendenti che dal 2014 incassano gli 80 euro al mese passerebbero a 100 euro al mese. Il ceto medio escluso dal provvedimento ne prenderebbe 80 euro fino a 35 mila di euro di reddito dichiarato, per poi arrivare a quello che si chiama decalage, cioè scendere gradualmente, oddio, neanche tanto gradualmente, cioè dai 35 ai 40 mila euro l'effetto va a annullarsi. Per quasi tutti i beneficiari si tratterebbe di una detrazione fiscale. Poi c'è chi sta ipotizzando che il governo sia tentato da fare il colpo unico, cioè mettere un super bonus vacanze nella busta paga di luglio da 120 o da 480 euro. Però c'è anche una terza ipotesi che sposa molto il PD, che andrebbe ad escludere i lavoratori con gli 80 euro, ma favorendo chi sta prima e chi sta dopo, cioè 4.600.000 incapienti, dai quali va però escluso chi prende il reddito di cittadinanza, e altri 4.300.000 con reddito tra i 26.000 e i 40.000 euro. La scelta non è solo contabile, e cioè è anche di carattere più politico. Avendo poche risorse, perché sono 3 miliardi per 6 mesi, devono essere 6 per un anno, tu devi scegliere sostanzialmente se polverizzi la misura, cioè aumenti la platea ma il beneficio è minimo, c'è il rischio, ricordate il governo Letta, pizza e birra per i 12 euro, oppure mantiene la misura significativa da un punto di vista economico, ma riduci la platea. Ecco perché parlo di una valutazione anche di politica, di carattere politico. Ovvio però che questo parte a luglio, ma deve essere poi riconfermato da gennaio. Il governo ha detto che sono 5 miliardi che devono per forza diventare 6, visto che i tre li ha applicati da luglio a dicembre. Oggi il ministro Gualtieri ha detto al seminario del PD: la prima tranche della riforma fiscale vogliamo farla partire subito, entro questo mese arriverà un decreto che consentirà di ridurre le tasse fino a 14 milioni di lavoratori, specie per i redditi medio-bassi finora esclusi dagli 80 euro. Abbiamo fatto la valutazione tecnica sulla possibile allocazione delle risorse non indifferenti che abbiamo stanziato per riduzione del cuneo fiscale. Ora nei prossimi giorni, voglio dire già nelle prossime ore, avvieremo, auspico rapidamente, con esiti rapidi, un confronto con le forze di maggioranza e poi ci incontreremo con le parti sociali con l'obiettivo di varare, io penso entro questo mese, un decreto che consenta di ridurre concretamente le tasse fino a 14 milioni di lavoratori e fornire un beneficio significativo, in particolare una fascia importante di percettori di redditi medio-bassi che finora sono rimasti totalmente o parzialmente esclusi dalla misura degli 80 euro. Allora, i sindacati in vista poi dell'incontro, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ha detto insomma dobbiamo arrivare ai risultati, ci deve essere uno strumento che porta un aumento dei salari e degli stipendi netti e bisogna concentrare, la questione fiscale deve essere presa nel suo complesso, quindi aliquote IRPEF, detrazioni, rimodulazione dell'IVA. Se il governo ha fatto questo provvedimento, perché noi nelle piazze abbiamo manifestato un po', non è che ce l'ha regalato qualcuno, Questo è un primo risultato. Noi vogliamo che questo provvedimento dia salario oltre i 25.000 euro annui, vogliamo che si estenda, sappiamo perfettamente che i tre più gli altri che diventano 5 il prossimo anno non sono ancora sufficienti per poterlo dare a tutti i lavoratori, ma si può sicuramente allargare la fascia, 35.000, 40.000, discuteremo, ma si può allargare la fascia e il numero dei lavoratori, ma diciamo anche che la lotta all'evasione fiscale che è cominciata in un paese che ha 118 miliardi di evasione fiscale, la lotta va fatta ancora più forte di quella che è stata fatta finora, quello che chiederemo al governo che le risorse che entrano dalla lotta all'evasione fiscale debbano andare a ridurre la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati. Quindi aumentare ancora di più questa cosa. Quindi questo è il modo con cui noi siamo contenti di andare a quella trattativa, vorrei essere chiaro, perché per la prima volta dopo tanto tempo si può cominciare a discutere di far pagare meno tasse a quelli che le hanno sempre pagate. A me sembra una buona notizia. Poi il problema è di vedere come si fa e da un certo punto di vista bisogna portare a casa una riforma vera, strutturale, che nel tempo sia in grado di dare risposte. I 35.000 euro che cita Landini sono proprio la differenza tra i 25.000 euro di reddito di cui beneficiavano al massimo, cioè in cui c'era il beneficio massimo degli 80 euro di Renzi, e invece il piano del governo sul fisco appunto di ampliarla fino a 35.000 euro e poi invece va a scomparire rapidamente, come dicevo, tra 35.000 e 40.000 euro il beneficio della riduzione del cuneo fiscale, quindi gli 80 euro, da non confondersi con gli 80 euro di Renzi, che invece diventerebbero 100 in chi già li percepiva. Sentiamo anche in rapida sequenza Anna Maria Furlan, segretario generale della CISL, sempre sulla proposta del governo, l'incontro di venerdì, e poi darò io invece una valutazione di quella che è molto diversa dei commercialisti italiani. Vedremo cosa definiremo al tavolo di confronto. Una cosa è certa, va maneggiato il tema con molta cura, perché chi fa facilmente ipotesi di passare dal bonus alle detrazioni senza fare i calcoli esatti rispetto alle varie fasce di reddito dei lavoratori rischia di creare pasticce. Noi non abbiamo bisogno di pasticce. We'll be right back. Allora, scettici, dicevo, i commercialisti, perché dicono che la legge di bilancio nel suo complesso avrà un impatto positivo sulla pressione fiscale delle famiglie in maniera contenuta, pari allo 0,20% del PIL. È un impatto che salirà, in senso positivo, a 0,21 punti nel 2021. E pur ipotizzando, si legge nel documento, scusatemi, del Consiglio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pur ipotizzando la trasformazione in detrazione fiscale del bonus di 80 euro mensili, non si rientrerebbe del tutto dallo shock fiscale del 2012 per i nuclei familiari. Lo shock fiscale 2012 era quello del governo Monti. Però i commercialisti fanno notare che il reddito medio familiare nel 2017, dato quindi vecchiotto, è risultato pari a 31.393 euro, superando per la prima volta il livello pre-crisi di 30.500 euro del 2009. Significative però le differenze territoriali. Il dato, ripeto, del 2017, con un sud dove il reddito medio familiare di 25.400 euro, il nord-ovest dove è più alto, beh, il più alto, a 35.400 euro. Adesso andiamo sul meteo e la pubblicità e poi Tridico, ma anche e soprattutto questa nuova inchiesta che di nuovo pone un colosso del web come Netflix nel mirino. L'inchiesta è britannica, purtroppo in questo caso possiamo dire tutto il mondo e paese. Netflix, ripeto, l'anno scorso ha pagato in Gran Bretagna nel 2018, pur avendo 860 milioni di sterline di entrate di ricavi da 10 milioni di abbonati, ha pagato di tasse in Gran Bretagna 0,0 pound. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Got a new vibe with this. Dunque, adesso arriviamo al web e alla tassazione web, che è un tema che non siamo ossessionati da questo, ripeto, così come non siamo ossessionati dalla lotta all'evasione, ma non riteniamo che si possa transigere sulla lotta all'evasione. Che coerenza avremmo nel chiedere una lotta all'evasione o nel criticare il governo quando ha fatto una retromarcia completa sull'utilizzo delle carte di credito, sui benefici, su quant'altro, sulle penali che non ci sono per i commercianti o le partite IVA, i professionisti che non le hanno, e poi dire vabbè, ma Netflix. Io ho la sensazione che delle volte ci sia una specie di sudditanza culturale nei confronti dei colossi del web, siccome sono fighi, sono belli, sono fotomodelli, allora no, l'evasore è sempre quello che gira con la Mercedes e lavora nel commercio. Invece quando parli di cose un po' più fighette, ma no, andiamo a vedere i numeri, l'evasione lì è enorme. Però volevo chiudere con, visto che parlavamo di pressione fiscale, con le dichiarazioni di Tridico, perché oggi il presidente dell'INPS, che domani sarà ospite, ripeto, di Simone Spezia e Maria Latella alle 8.35, in un'audizione in commissione parlamentare, ha detto: il fondo integrativo pubblico è qualcosa di cui si sta parlando e sono contento. Oggi la previdenza complementare raccoglie 167 miliardi, due terzi investiti all'estero. Io penso a un fondo integrativo pensionistico pubblico e volontario gestito dall'INPS. Sulle prestazioni ha detto, poi è intervenuto sia su quota 100 che sul reddito di cittadinanza. Allora sentiamo intanto il dato su quota 100: 150.000 pensioni che sono rientrate, diciamo, sono state pagate con quota 100. Nel 2019 le domande di pensione anticipata presentate dai lavoratori nel settore privato sono il 32,9% in più di quelle del 18, mentre quelle presentate dai lavoratori nel settore pubblico sono il 300%, 307% in più, tre volte di più. Perché? Perché appunto il flusso di quota 100 in entrata ha causato un aumento di prestazioni, un aumento tuttavia molto inferiore rispetto a quello preventivato in relazione tecnica. I numeri che riguardano le domande pervenute di quota 100 nel 2019 sono 380.000, ma comprendono anche tutte le altre forme di anticipata, non solo quota 100. Quelle soltanto liquidate di quota 100 sono circa 150.000 liquidate perché accettate, non tutte le presentate vengono accettate, quindi nell'anno appena trascorso abbiamo pagato 150.000 pensioni di quota 100. E poi il reddito di cittadinanza dice il reddito copre 1.077.000 famiglie per un ammontare di individui poco oltre i 2,5 milioni, di cui 200.000 sono disabili, 400.000 bambini e 740.000 sono persone occupabili. Allora, questo è il reddito, non è la pensione di cittadinanza. Ovviamente i disabili e i bambini fanno parte. Te dico cosa dice. Dice: l'abbiamo dato a 1.700.000 famiglie che dentro hanno, all'interno della famiglia, 2.500.000 di individui. E la parte occupabile, dicevo, sono 740.000 persone. Occupabili non vuol dire che abbiano trovato lavoro. Il problema nella parte del reddito che è stata venduta come capacità di trovare lavoro è che secondo me lì arriverà poco o niente rispetto ai costi. Comunque, importo medio del reddito pari a 520 euro, quello della pensione di cittadinanza è 220 euro. Ripeto per la 20.000esima volta che io invece sulla pensione di cittadinanza sono assolutamente d'accordo, così come sulla parte che è andata a essere una misura sociale, non misura di collocamento. Quindi tridico sia su questo sia sul 30% delle domande respinte. E poi su un elemento fondamentale, lo stesso presidente dell'INPS dice: guardate che il reddito di cittadinanza non crea lavoro, aiuta il mercato ma non crea lavoro. Oggi il reddito di cittadinanza copre quasi 1,1 milioni di famiglie, quindi quasi 1,1 milioni di famiglie, per un ammontare di individui superiore a 2,5 milioni di persone. Tra questi ci sono circa 200.000 disabili e 400.000 bambini, e tra questi ci sono circa 700.000 persone occupabili. Ecco, questi sono dati macro, che ovviamente per un importo medio di reddito di cittadinanza pari a 520 euro, di pensione di cittadinanza pari a 219 euro, quindi 520 reddito di cittadinanza, 219 pensione di cittadinanza. Noi oggi rifiutiamo il 30% delle domande di reddito di cittadinanza ricevute, lo rifiutiamo essenzialmente perché grazie all'incrocio con i dati, con la Guardia di Finanza e con il sistema bancario, noi sappiamo che tu hai un reddito più alto, un patrimonio più alto, e quindi stai fuori. Il 30% di coloro che fanno domanda di reddito di cittadinanza viene automaticamente, con un click, escluso dal fatto che sta oltre le soglie, perché autocertifica, e poi con i dati che noi incrociamo lo tagliamo fuori. Ho detto e lo ripeto che il reddito di cittadinanza non crea lavoro in questa misura, non crea vacanze. Il reddito di cittadinanza non crea vacanze. Posti di lavoro vacanti vengono creati da investimenti, non da una legge, né dal decreto dignità. Il decreto dignità non crea lavoro. Il reddito di cittadinanza non crea, nel senso letterale del termine, creare lavoro. Il lavoro può essere creato con un solo modo: gli investimenti. Il reddito di cittadinanza aiuta ad allocare il lavoro sul mercato attraverso l'incrocio della domanda e l'offerta, la formazione dei lavoratori, la lubrificazione del mercato del lavoro, così come qualsiasi altra politica attiva. Allora siamo tutti d'accordo, però lo dico con massimo rispetto per Tridico, che pure è un difensore del reddito. Cioè, c'è qualcosa che dimentica il presidente dell'INPS, dimentica anche il Movimento 5 Stelle che l'ha sempre difeso. Non crea lavoro, l'abbiamo sentito in maniera netta, detta dal presidente dell'INPS. Dovrebbe facilitare l'incrocio domanda-offerta. Allora, intanto è buono che tutti siamo d'accordo sul fatto che il lavoro si crea con gli investimenti e agevolando gli investimenti delle imprese pubbliche o private, quindi agevolazioni fiscali, le zone economiche speciali e quant'altro. E sugli investimenti invece ho visto una grande resistenza. Due, dimentica una cosa il presidente dell'INPS, che ci diceva ieri invece chi gestisce una delle principali società al sud di formazione e collocamento, FMTS, che crea concorrenza. E cioè la dichiarazione di ieri è stata molto netta: abbiamo più difficoltà a reperire poi risorse sia da formare che da collocare, perché l'alternativa sono i soldi che prende con il reddito di cittadinanza, e quindi uno mi risponde, c'è sempre quello che mi scrive, certo se offri 800 euro è chiaro che uno si tiene il reddito. No, non sono d'accordo, perché 800 euro saranno frutto di un mercato, meglio 800 euro lavorati che 500 o 700 euro a casa in attesa di una chiamata che non arriva. Ma per favore, e comunque è sbagliato, perché quei 700 euro sono soldi pubblici, potevamo fare altre cose con quei soldi, parlo del collocamento, mentre gli 800 euro sono soldi di un privato che li dà. Sì, sarò ridicolo, ma non cambio idea. Andiamo sul traffico e poi parliamo invece dei colossi del web. Focus Economia. Nessuna associazione tra La Base, che è di un film dedicato alla mala, e quello di cui stiamo parlando. Perché? Perché Angelo Mincuzzi, quello che ha scoperto il rapporto britannico Tax Watch relativo a Netflix in Gran Bretagna, e cioè 860 milioni di sterline di ricavi dai suoi 10 milioni di abbonati, in Italia sono 1 milione e 200 mila, in Gran Bretagna sono 10 volte tanto, ha permesso a Netflix, adesso ci spieghi come, di non pagare alcuna imposta nel Regno Unito. Devo dire che non c'è nulla di nuovo, i giganti del web sono anche i giganti dell'elusione fiscale, lo dico senza timore di essere smentito, perché al di là degli accordi fatti dal modello Milano, che ha permesso di far pagare a Google 300 milioni, a Amazon 100 milioni, a Facebook 100 milioni, a Apple 320, poi il mega accordo con Kering, che è un gruppo moda da 1 miliardo e 300 milioni, nel 2017 Facebook ha pagato, pur fatturando 700 milioni di euro, ha pagato 260 mila euro. Airbnb in Italy nel 2017 ha pagato 60 mila euro, cioè meno di un qualunque dipendente di livello. TripAdvisor 20 mila euro, cioè stiamo a livello di un impiegato. E, tra l'altro, addirittura Facebook aveva pagato nel 2017 260 mila euro. Pensate che se solo si fosse applicata la tassa del 6% avrebbe pagato 42 milioni. Allora, dici che cosa... Tra l'altro in Gran Bretagna l'aliquota effettiva che grava su Amazon è 11 volte più bassa rispetto a quella di una libreria tradizionale. In Irlanda, Apple, ci fu il caso incredibile, riuscì a pagare nel 2014 solo lo 0,005% dei suoi profitti. Come ha fatto Netflix? L'hai detto tu stesso, no? Hai citato una serie di esempi calzanti, no? Che fanno capire qual è ancora la situazione e qual è ancora come dire, il grande vantaggio che le multinazionali hanno sulle piccole e medie imprese. Quindi una competizione alterata dall'aspetto fiscale. Adesso tocca a Netflix, ma questo rapporto di Tax Watch, che è un think tank inglese, fa meglio capire perché l'anno scorso la Procura di Milano, tu citavi giustamente il modello Milano, ha aperto un'indagine su Netflix, perché anche Milano sta indagando su Netflix. Netflix in Italia ha 1.200.000 abbonati circa, ma non ha una società. E quindi cosa succede? Quando noi paghiamo l'abbonamento a Netflix, i soldi vanno in Olanda. Mm-hmm. Vanno fuori dall'Italia, e questo accade un copione sempre lo stesso, accade, cioè, per posso fare un esempio così ci capiamo tutti. Allora, Greco ce l'abbiamo, voglio fare, perché Netflix per esempio ha distrutto, ma non è una cattiveria, non è tutto il mondo dei DVD, la tecnologia, possiamo dire che non esiste più Blockbuster, facciamo questo esempio per chi ha una certa età, rispetto a Netflix, ma non ha più senso. Benissimo, Blockbuster però aveva un negozio fisico, ne aveva tanti in Italia, c'erano dei dipendenti pagati e assunti, pagavi le tasse sui dipendenti, pagavi le tasse su quello che vendevi, c'era l'IVA, e poi era difficile dire che tu non fatturavi nulla in Italia avendo i negozi fisici. Questo è il problema, perché se tu continui a giocare in questo modo è chiaro che da un lato tu hai posti di lavoro che si perdono e dall'altro non hai soldi come Stato per fare politiche di welfare in attesa che si creino nuovi posti di lavoro. Meglio di me l'ha spiegata il procuratore capo della Repubblica di Milano, ma siccome non ho più tempo e voglio farla sentire tutta, ascoltiamo questa frase dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva solo in podcast.

Sì, ma il metodo è quello che viene usato praticamente da tutte le web company. Si hanno delle attività in un paese per cui gli abbonati pagano la società in questione, ma i soldi non si fermano in quel paese, ma vanno in paesi come l'Olanda, Lussemburgo, ma soprattutto l'Olanda, dove ci sono sistemi di tassazione molto bassi, ci sono accordi fiscali contro la doppia imposizione con altri paesi che fanno sì che attraverso schemi fiscali complicati alla fine non si paghino le tasse. Ora, Netflix è corsa ai ripari dopo che la Procura di Milano ha aperto l'inchiesta, è arrivato qui l'amministratore delegato e ha detto no, noi le tasse le vogliamo pagare, apriremo un'impresa. Ecco quindi l'utilità di queste iniziative come quella della Procura e della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate. Francesco Greco ha colto il punto. È una questione di sopravvivenza. Bisogna trovare, non si tratta di arrestare il progresso, bisogna trovare il modo di far pagare le tasse ai nuovi protagonisti dell'economia, che guarda caso sono tutte multinazionali americane. Tra l'altro, alcuni mi fanno notare che l'Olanda, che è uno dei principali paradisi, non paradisi, ma non è un paradiso fiscale, però che agevola moltissimo la tassazione, è anche il paese che è più duro con l'Italia nel mancato rispetto delle regole. Ora, attenzione, perché tu non puoi da un lato essere concorrente, per carità, il problema è che manca una web taxation di carattere europeo anche per l'opposizione di Irlanda e in parte di Olanda, per cui sono molto bravi a far rispettare le regole quando non riguardano loro, o meglio quando il principio di equità e di un unico mercato dovrebbe riguardare anche loro. Poi Trump, ricordo che il 4 dicembre si è schierato contro Parigi perché la Francia, che va avanti con la digital tax, ha detto Trump, se andrà avanti verrà colpita con dazi fino al 100% su beni per un valore di 2,4 miliardi di dollari, una rappresaglia che potrebbe colpire anche altre capitali che dovessero seguire la strada di Parigi, tra cui Roma. Per Parigi le minacce risultarono inaccettabili. Però la Commissione europea, Angelo, per concludere, è ancora lì in panne su questo, aveva detto ai singoli paesi, perché Germania, Francia e Italia volevano muoversi per i fatti loro, no, aspettate, faremo la materia di carattere europeo, serve una regolamentazione di carattere europeo, non ho visto nulla. E dall'altro, se, oltre a questo, se mi rispondi anche al fatto perché però tutte le volte che la Procura di Milano ha aperto un'indagine poi si è arrivati a un accordo in cui i colossi web hanno sborsato. Allora, comincio da quest'ultimo aspetto. Si arriva ad un accordo perché, diciamo, le prove raccolte sono inoppugnabili, cioè viene certificata l'evasione fiscale, quindi a quel punto non hanno una possibilità di scampo, preferiscono trovare un accordo, pagare qualcosa che non equivale mai a tutto il vantaggio che hanno accumulato negli anni, però è già qualcosa e soprattutto serve per mettere ordine per il futuro. Quindi fanno sì, questi accordi, che domani queste web company pagheranno le tasse in Italia, cosa che non hanno fatto in passato. È chiaro che a livello europeo, a livello, diciamo, mondiale, è in atto un grande braccio di ferro, una grande lotta tra Europa e Stati Uniti su questo, perché le dichiarazioni di Trump lo dimostrano, le divisioni dell'Unione Europea da questo punto di vista sono un'ulteriore conferma. Attraverso la tassazione, sulla tassazione delle web company, che come dicevo prima sono tutti giganti americani, si giocano i rapporti politici, certo, economici tra le due sponde dell'Atlantico. L'Europa, se non trova una linea comune, è destinata a perdere, ma è, come diceva Greco, è una questione di sopravvivenza. La linea comune la devono trovare e le pressioni, sì, all'interno dei paesi verso l'Unione Europea servono proprio a questo, a raggiungere questo obiettivo. Sì, quindi non c'è solo Trump che mette i dazi all'Europa, autorizzato dal WTO per la vicenda Boeing, adesso vedremo cosa deciderà la WTO sulla causa opposta Airbus contro gli aiuti americani a Boeing, ma c'è anche Trump e la Casa Bianca che difende a spada tratta i colossi del web, perché sono tutti americani, ancora assieme all'elemento militare, forse il maggior elemento di forza industriale, economica che hanno gli Stati Uniti, e un'Europa che si... Cioè io sono d'accordo con chi dice sì, va bene occuparsi del deficit al 2,4, 2,6, 2,7%, certo che se facessi anche avesse anche la forza di dire che la concorrenza non può essere sleale internamente, perché non è, attenzione, io non ho niente in contrario che in Irlanda le tasse siano più basse per chi lavora effettivamente in Irlanda, cioè, ma ci mancherebbe, o in Olanda. Il punto è che se l'Olanda, l'Irlanda o Lussemburgo diventano la scusa di comodo, la sede di comodo per eludere le tasse, i ricavi, e quindi le tasse sui ricavi che sviluppi in altri paesi, questo non mi va bene. Poi se uno è un commerciante in Irlanda ha il vantaggio di pagare, o un'impresa di servizi in Irlanda, ha un artigiano in Irlanda, paga meno tasse che in Italia, non è questo, però non puoi essere tu stesso il cavallo di Troia per elusione fiscale. Grazie anche Angelo Mincuzzi. Grazie a voi. Andiamo adesso invece sui rischi per le imprese, che non riguardano tanto l'evasione o l'elusione fiscale, ma vedono salire molto nella classifica, nel rapporto annuale di Allianz Risk Barometer 2020, non solo i rischi informatici, quindi in parte ci colleghiamo, ma anche il cambiamento climatico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Vabbè, c'è uno che, con un ascoltatore che mi insulta perché sto dicendo Olanda invece che Paesi Bassi. Gli dirò Paesi Bassi, gli dirò Netherlands, ma cambia poco rispetto al ragionamento. Rischi per le imprese. Il rapporto è al nono anno, 2600 esperti provenienti da oltre 100 paesi, soprattutto quelli che si chiamano risk manager, quelli che dentro le imprese, un po' più grandi, ma non solo grandi, si occupano del rischio sugli investimenti, broker, esperti assicurativi e anche i numeri uno. Nicola Mancino, responsabile Allianz Global Corporate Italia, buonasera. Buonasera dottor Bisoni, buonasera agli ascoltatori. Dunque, per la prima volta, se ho ben capito, da quando fate questo barometro del rischio, i rischi informatici sono arrivati al primo posto e invece al secondo posto il rischio di interruzione di attività. Mentre 7 anni fa, quando avevate appena iniziato a farlo, era al 15° posto, cioè solo il 6% riteneva il rischio informatico un rischio forte per le imprese. Qua siamo passati al 39%, primo posto tra i rischi visti. Prego. Sì, è vero, e questo direi che oltre ad essere a livello mondiale lo vediamo sia in Europa che in Italia, quindi è equamente distribuito. Direi che la novità che al di là del primo posto del cyber è proprio la scalata che ha fatto negli anni. Mm-hmm. Perché poi dire del primo posto, l'interruzione dell'attività si colloca al secondo posto nella categoria dei rischi più sentiti col 37%, quindi è un testa a testa. Ma il tema è proprio questo: come un rischio è nato, si è sviluppato e oggi ne ha percezione la comunità dei risk taker, e come questa evoluzione sia potuta avvenire in soli 7 anni. È chiaro che c'è una componente sicuramente fattuale, cioè il network e gli assalti e i rischi informatici sono aumentati nel numero, ma c'è anche un fondamento legislativo e quindi c'è una maggior regolamentazione che fa percepire maggiormente il rischio finanziario. Allora, dopo il traffico vorrei parlare di un altro rischio che ha risalito molto la classifica ed è il rischio cambiamento climatico, anche perché oggi in Europa è stato presentato il piano da 1.000 miliardi complessivamente da qua al 2030, quindi ci colleghiamo facilmente. Anche qui il cambiamento climatico è salito al 7° posto. Faccio notare che i cambiamenti nella legislazione e nella regolamentazione sono al 3° posto, questo lo dico perché abbiamo parlato anche ieri della vicenda Atlantia, vi torneremo su Atlantia. Dopo il traffico. Cerco maschio alfa, affettuoso e intelligente e ricco e passionale e bravo a cucinare e anche a stirare. Se vuoi sempre di più, scegli Fiat. Solo a gennaio tutta la gamma è a piccole rate con anticipo zero. Ad esempio Panda da 99 euro al mese per i primi 2 anni e poi da 134 euro al mese. E con l'assicurazione Make Up i piccoli danni non sono più un problema. Ci pensa Fiat. TAN 645 TAG 939. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiat.it. Focus Economia. Dunque, dottor Mancino, salito molto nella vostra classifica, barometro dei rischi come percepiti e identificati dalle imprese, i 2.600 esperti che avete intervistato, il rischio ambientale, dicevo al terzo posto però resta il rischio del cambiamento nella legislazione e regolamentazione. Cambiamento climatico è al settimo posto, se mi commenta tutti e due. Sì. Allora, il cambiamento climatico al settimo posto, tra l'altro, come giustamente diceva, è il grado più alto che ha raggiunto in questo periodo, in questi 9 anni. Siamo arrivati a una percentuale del 17%, l'anno scorso era all'ottavo posto col 13%. Direi che il tema è forte, perché chiaramente il cambiamento climatico ha impatto sull'attività delle imprese e soprattutto c'è sempre maggiore regolamentazione environmental, social and governmental che impone ai board un intervento attivo sul tema. All'interno del climate change poi c'è tutto il tema della decarbonizzazione che assume una valenza sempre più alta. Sempre in tema di cambiamenti, visto che poi quando parliamo di rischi e di grading risk, noi abbiamo 3 categorie di fatto. Abbiamo sostanzialmente i rischi immateriali e patrimoniali, quando abbiamo parlato prima di cyber e di danni a interruzione. Poi abbiamo i rischi di cambio, finanziari, cambio di regole, no? I change, di cambio di regole, certo, che è al terzo posto. Esatto. E invece sul cambiamento legislativo, dicevo, sicuramente incide il tema di incertezza regolamentare, in particolare poi in Europa dove c'è il tema Brexit. E infatti questa posizione particolare dell'Europa è che viene risentita anche oltreoceano, la vediamo nell'osservazione dell'Italia, dove il cambiamento legislativo invece è al quarto posto. Infatti, prego. Conclude, prego. No, e qui mi piace invece evidenziare come in Italia, visto che siamo da noi, in Italia al terzo posto si colloca invece il rischio reputazionale ed immagine, sì, che è una ragione ben precisa, magari ne parliamo insieme. Quando me lo dica, perché devo chiudere, devo passare alla decisione europea, qual è la ragione per cui in Italia al terzo posto c'è danno reputazionale o d'immagine? È la forza del Made in Italy. Noi viviamo l'Italia vive. Quindi di il timore made più in grosso Italy. Delle imprese è il danno reputazionale, perché viviamo di Made in Italy, di immagine e di reputazione proprio sull'export. Infatti, in Italia il primo rischio, a differenza della classifica internazionale, è interruzione di attività. Poi subito dopo attaccato c'è il rischio informatico e poi il terzo posto il danno reputazionale. E le catastrofi naturali, la parte ambientale è comunque alta perché è al quarto posto. E, restiamo in tema di green per capire se questi 1.000 miliardi annunciati oggi per 10 anni dal piano di investimenti pubblici per il Green Deal europeo saranno veri o saranno come quelli di Juncker. Lo dico con massimo rispetto per gli ascoltatori, e intanto ringrazio Nicola Mancino, responsabile Allianz Global Corporate Italia. Dunque, il braccio finanziario del cosiddetto Green Deal europeo, l'obiettivo al 2030, o meglio arrivare all'obiettivo zero emissioni nel 2050 e ridurre le emissioni al 2030 dall'attuale 40% di riduzione al 50-55% rispetto al 1990. I fondi saranno 500 miliardi sul ben capito dal bilancio dell'Unione Europea, 300 miliardi da ciò che resta del piano Juncker Invest EU, 100 miliardi dal meccanismo per la transazione equa e 100 miliardi dai cofinanziamenti nazionali, cioè dai singoli paesi che vanno in cofinanziamento. Poi tutto questo fa più o meno 1.000 miliardi e poi le regole degli aiuti di Stato verranno riviste in chiave green. Questo potrebbe aiutare, lo dico tra virgolette, l'Italia nel dossier ILVA. Perché la Commissione proporrà che il nuovo fondo per la transizione equa, 7 miliardi e mezzo per il 2021-2027 che saliranno a 3,50 miliardi grazie alle risorse dirottate dai fondi strutturali, possono finanziare anche la bonifica di siti inquinati e inquinanti e la riconversione industriale di grandi aziende. Sergio Nava, buonasera. Buonasera. Domanda è molto semplice, il piano è lunghissimo, non possiamo... Che concretezza ha? Cioè, voglio dire, ho fatto l'esempio con Juncker, perché poi il famoso piano Juncker si è visto poco, perlomeno qui. Ma questo, diciamo, appare ancora più gigantesco, se vogliamo, del piano Juncker, e a dimostrarlo è stata anche la cacofonia di voci che abbiamo registrato oggi. Ben 5 commissari, tra cui l'italiano Paolo Gentiloni, hanno parlato, più la presidente della commissione von der Leyen, in ben 3 momenti diversi oggi tra Bruxelles e Strasburgo. Possiamo dire che chiaramente queste sono le intenzioni. Poi ci sono tutti i che hai riassunto molto dettagliatamente finora. Poi ovviamente ci sono tutti i distinguo, perché abbiamo 503 miliardi dal budget europeo settennale, di un budget europeo che ancora non è stato definito, perché siamo ancora in piena trattativa, quindi è, come dire, è condizionale che questo budget poi venga approvato. Abbiamo questo fondo, questo meccanismo per la transizione equa, che ha anche un fine molto nobile, cioè quello di bonificare siti o riconvertire siti, diciamo, ancora a carbone, e soprattutto riqualificare i lavoratori per poter consentire loro di trovare una nuova occupazione. Qui l'idea è quella di mobilitare già 7 miliardi e mezzo l'anno prossimo, ma gli stati membri dovranno associarci tra, se ricordo bene, uno per ogni euro mobilitato, 1 o 3 euro dovranno mobilitarlo gli stati membri, e quindi saranno spese ulteriori che molti stati membri già non hanno molta voglia di accollarsi. Un ruolo importante lo avrà anche in questo caso, come per il piano Juncker, la Banca Europea per gli investimenti, e occorrerà capire quanta leva finanziaria si riuscirà a produrre attraverso, appunto, il nuovo piano Juncker in versione ecologica, chiamiamolo così. Interessante è quanto ha detto poco fa il commissario agli affari economici Gentiloni, lo hai accennato tu poc'anzi, cioè proprio la correzione delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato. E questo è interessante, perché diciamo che quindi investimenti verdi o comunque tutto ciò che riguarda questo tipo di economia, dal quale è escluso il nucleare, attenzione, questo l'hanno precisato, potrà avere appunto anche in operazioni relative agli aiuti di Stato, mentre Gentiloni non si è sbilanciato molto per quanto riguarda il possibile sfilamento dai parametri di Maastricht, cioè, insomma, lo sappiamo bene, di queste operazioni. Ecco, è vero, per concludere, che per ottenere la luce verde dai governi europei, perché poi deve esserci l'approvazione, la Commissione punterebbe a lasciare la possibilità ai singoli governi di designare all'interno degli obiettivi comuni i territori beneficiari del nuovo fondo, in modo che poi non ci sia troppa rigidità nell'utilizzare questi fondi. Sì, e qui arriviamo appunto alla concretizzazione di questo piano, perché il problema è che... Cioè, in modo che io possa usare i soldi pubblici per investimenti verdi senza violare le norme sugli aiuti di Stato, che sarebbe un bel passo in avanti, almeno sul verde. Sì, questa appare l'intenzione. Chiaramente oggi è stato presentato il cappello, insomma il piano nel complesso, le cifre, poi da adesso parte anche una contrattazione col Parlamento europeo, con gli stati europei, che e questa è la commissione, no? Ricordo agli ascoltatori. Nel ringraziare Sergio Nava, devo dire una cosa a alcuni tassisti che mi stanno scrivendo sulle multinazionali del web, anzi sui colossi del web. Adesso voi li criticate con Uber, guardate che con Uber, adesso non posso riaprire la puntata, ma noi non abbiamo mai criticato, mi hanno detto che Uber è bella e brava, anzi abbiamo chiesto che le regole siano identiche per tutti quando operi in un paese. Altra cosa era stato l'invito da alcune categorie di tassisti a capire che la concorrenza si batte non solo, diciamo, limitando, chiedendo regole uguali per tutti, e ci mancherebbe, ma anche un po' innovando. E non voglio tornare su vecchi temi delle carte di pagamento, di carte di credito e quant'altro. Comunque, grazie anche a Sergio Nava. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata.